Italia in controluce. E ora parliamo della criminalità. Andiamo a Napoli per una storia che riguarda un artista, la Camorra. Ha paura delle parole e lo dimostrano le minacce allo scrittore Roberto Saviano. Ma il sistema della criminalità teme anche l'arte. È accaduto proprio a Napoli, dove un'installazione, una gigantografia che ritraeva un Cristo morente, è stata manomessa per togliere dall'intestazione ogni riferimento alla Camorra. Maria Luisa Pezzali. Anche la Camorra mette in atto la censura contro l'arte. Anche la Camorra però non sfugge al suo effetto boomerang. È la notte fra il 19 e il 20 settembre scorsi quando una mano ignota interviene sull'installazione montata da soli 2 giorni a Porta Capuana, una delle antiche vie d'accesso di Napoli. Una gigantografia di 112 metri quadrati, un Cristo morente e 2 pistole in primo piano, sotto la scritta: con la crisi la Camorra cresce e la speranza muore. Grazie a un taglio chirurgico, dallo slogan anticlan scompare la parola Camorra. Uno sfregio che si è trasformato in una beffa per chi l'ha fatto, ci dice l'artista autrice dell'installazione, Rosaria Iazzetta. L'abbiamo lasciata con quel taglio, è rimasta poi per il mese successivo con quel vuoto. Perché la cosa interessante era che tutti ormai sapevano che lì c'era la parola Camorra. Come dire, un vuoto però pieno di questa violenza, insomma, criminale. È stato ancora più incisivo il fatto di non averlo cambiato e di aver voluto poi dare un segnale ancora più forte, ossia che quella piazza antistante Porta Capuana è stato pensato a questo punto di dedicarla a Giancarlo Siani. In modo che tutta questa gente che poi vive in quella piazza e che pensa di continuare a vivere con il sopruso debba incominciare a fare i conti con qualcosa che invece è legalità, è sano, è giustizia, è giusto. Napoletana di Mugnano, 33 anni, da tempo Rosaria con la sua arte contribuisce alla battaglia per la mobilitazione delle coscienze nella sua terra. Lo fa con opere di forte impatto, gigantografie e banner dalle massime spiazzanti. Prima di Porta Capuana ci sono state Scampia, Ercolano, Pompei. Sugli edifici di Gomorra, Rosaria ha piazzato varie scritte, tra cui «Quando il vento dei soprusi sarà finito, le vele saranno spiegate verso la felicità». Sulla facciata della chiesa di Ercolano è comparsa «L'unico tesoro che porterai con te oltre la morte sarà la coscienza». Accanto la foto di un cadavere dentro una bara piena d'oro. Sulla sede della Polizia Municipale a Pompei le parole di Paolo Borsellino. A fine mese, quando ricevo lo stipendio, faccio l'esame di coscienza e mi chiedo se me lo sono guadagnato. Se tu vuoi arrivare a certe tipologie di persone, devi trovare una modalità per arrivare direttamente a loro. A Scampia, quando noi installammo, c'era un grandissimo pregiudizio rispetto a questi grandi banner, anche se lì erano soltanto delle scritte. Oggi, a distanza di 2 anni, la cosa straordinaria è che i giovani adesso non si incontrano più dicendo di incontrarsi nel nome della piazza, ma decidono di incontrarsi dove c'è il banner. Quindi loro dicono: incontriamoci quando la felicità non la vedi, cercala dentro. Quindi è diventato talmente parte della loro vita che quindi lo condividono anche nelle loro azioni, no? Lo sentono veramente. Secondo me è l'unica modalità per cui noi possiamo combattere in maniera alternativa la Camorra, e soprattutto attraverso la creatività, perché la creatività è un dono e loro non ce l'hanno. È un dono troppo profondo da essere riconosciuta da queste persone, per cui questo secondo me è uno degli approcci per cui noi possiamo veramente ribaltare le cose. Quando impareremo a diventare un unico corpo, io credo che forse tutti i sistemi criminali non avranno più speranza. Il problema è questo, è che loro giocano soprattutto sul dividerci, no? Sul farci sentire soli. Si muore per un sì o per un no, si dà la vita per un ordine, una scelta di qualcuno. Fate decenni di carcere per raggiungere un potere di morte. Guadagnate montagne di denaro che investirete in case che non abiterete, in banche dove non entrerete mai, in ristoranti che non gestirete, in aziende che non dirigerete. Comandate un potere di morte cercando di dominare una vita che consumate nascosti sottoterra, circondati da guardiaspanne. Uccidete e venite uccisi, in una partita di scacchi il cui re non siete voi, ma coloro che da voi prendono ricchezza, facendovi mangiare l'un con l'altro, fin quando nessuno potrà fare scacco e ci sarà una sola pedina sulla scacchina. E non sarete voi. Senza gambo, senza la guerra, potesse ma stambasce, non passa terra. È tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Vi ricordo che potete commentare i servizi che sono andati in onda o scriverci le vostre storie controluce@radio24.it. Buona giornata.